Di che cosa si occupa il diritto privato? Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti della vita economico-sociale. Si occupa delle organizzazioni create per obiettivi generali o comuni a più persone che il singolo individuo non sarebbe in grado di realizzare agendo in modo isolato. Considera sia i rapporti interni all'organizzazione, fra coloro che ne fanno parte, sia i rapporti fra l'organizzazione e il mondo esterno. Coinvolge quindi associazioni, fondazioni, società, assemblea, amministratori, eccetera. Si occupa dei beni, cioè delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani. Più precisamente, si occupa dell'uso dei beni, stabilendo chi può usarli e chi no, in che modi e in che limiti possono essere usati. Si occupa poi delle proprietà, dei diritti reali, mobili, immobili, comunione, possesso e così via. Si occupa di debiti e crediti, cioè dei rapporti fra chi è debitore, obbligato a dare o fare qualcosa nell'interesse di un altro, e quest'altro, il creditore, che può pretendere quel qualcosa da lui. Quindi dell'obbligazione, delle parti e dei terzi, della prestazione, dell'adempimento, dell'inadempimento e così via. Si occupa di contratti. Il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni economiche. Incidono sulla proprietà e sull'uso dei beni, creano debiti e crediti. Ad esempio, il contratto di vendita sposta la proprietà della cosa venduta dal venditore al compratore, crea il debito del compratore per il pagamento del prezzo al venditore, che ha il relativo credito. Quindi concerne la volontà, l'accordo, la formazione, la forma, la rappresentanza, la prestazione e la controprestazione, l'onerosità e gratuità, l'esecuzione, gli effetti, i rimedi, la validità e invalidità, la risoluzione, eccetera, eccetera. Si occupa dei danni. Quando qualcuno subisce l'aggressione di un suo bene, ad esempio una lesione fisica, una sofferenza morale, la distruzione di una cosa, la necessità di sostenere spese, l'andata in fumo di un possibile guadagno, il diritto privato stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se invece il danneggiato la può ribaltare su qualcun altro, pretendendo da lui l'equivalente in denaro del danno sofferto. Si occupa quindi della responsabilità civile, del risarcimento, della responsabilità contrattuale o extracontrattuale, del nesso di causalità, del dolo, della colpa. Si occupa delle attività economiche organizzate, svolte da operatori economici professionali che producono beni e servizi e li scambiano sul mercato, cioè di imprese, aziende, società, consumatori, lavoro, fallimento. Si occupa della famiglia, cioè fondamentalmente delle relazioni fra marito e moglie, e fra genitori e figli, negli aspetti sia personali sia economici, e anche con riferimento all'eventuale crisi del rapporto di coppia. Si occupa infine delle successioni per causa di morte, cioè di quello che accade ai beni, ai debiti e ai crediti di una persona quando questa muore.